Era una nottata sfatata, una nottata che le caforze non ce ne possono stare solo quando si ne vogliono, un amabile lettore. O cielo, era così chi ne stella, così chiara, che tanna nuocchia, senza volere non poteva far meno di tardimannà. È mai possibile che sotto un cielo con macchist può campare ogni specie di gente ingazzosa e inseriosa? Pure che è una domanda di vogliono, un amabile lettore.